You'll also hear a new adjective. Ascolterà anche un nuovo aggettivo. The word for happy. Felice. Listen and repeat. Felice. Ed ora ascolti il dialogo. Sara, ma il suo italiano è perfetto. Non ha più bisogno di me. Oh, thanks. Grazie, but I still need you. I mean, I need your help. Ho bisogno del suo aiuto. E io sarò sempre felice di aiutarla. Dunque, una birra media, un bicchiere di vino bianco e l'acqua. Va bene? Benissimo. Grazie.